che insieme ci trovò, ripeterò ancor la strada che mi porta a te. Ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi troverai. Vedrai lo sguardo che per me parlò e la mia mano che la tua cercò. Ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi rivedrai. A te. Dedicato a te.